Pubblicata sulla rivista contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, nuova poesia di Luca Sardo Giambonino dal titolo Vita che corre. Le giornate non scorrono serene. Se mai v'è stato uomo ansioso, mai lo fu quanto io lo sono. Un nervosismo che ti coglie da dentro e più non lascia la presa sua sull'animo mio. Non so come nata sia, non so da dove arrivi, ma scacciarla è sempre ardua impresa. Ma non voglio soccombere. Voglio vivere.